qui a criticare. Vorrei soltanto poter soffocare la rabbia in corpo che mi fa male. Ogni giorno sembra negare dall'ignoranza delle persone solamente una ragione, troppa calma e niente ardore. Una ragione, troppa calma e niente ardore.